Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia. Iniziamo così, iniziamo con Viva l'Italia e così chiariamo subito il punto di questa trasmissione, devo dire una delle più difficili che ci tocca fare. Viva l'Italia, l'Italia ce la può fare. Adesso racconteremo una giornata drammatica da ogni punto di vista sui mercati, però ricordiamoci, questo è un grandissimo paese, è la quinta economia o sesta economia a livello mondiale, abbiamo un risparmio privato che tiene, non c'è motivo alcuno per arrivare a 575 punti di spread come abbiamo fatto oggi e prendere 100 punti di spread in 12 ore, se non un motivo politico. Colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia. Allora, che cosa è successo? È successo che, ne parleremo tra pochissimo con il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, poi avremo vari presidenti di banche per capire cosa stia succedendo nel mondo bancario, come si stiano muovendo le istituzioni che gestiscono il credito e chiaramente anche analisti e la cronaca. È successo che alla ipotesi di una non chiarezza ieri, ossia i tempi del maxi emendamento spostati a 2-3 settimane per l'approvazione, le diciamo dimissioni del Presidente del Consiglio, ma con un'incertezza su cosa capiterà dopo, governo tecnico, nuova maggioranza oppure elezioni, ecco, questo tempo, questo Paese non ce l'ha, non ce l'ha più e oggi ce l'hanno spiegato nella maniera più brutta possibile. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia. E allora, già in mattinata, ripeto, uno spread che ha preso 100 punti, vuol dire un punto percentuale di più sul nostro debito, ogni punto percentuale di PIL ci costa praticamente 8 miliardi di euro, non un punto di PIL ma un punto sul debito. La borsa, ripeto, oggi secondo me la borsa è la parte più marginale, per quanto un calo del 4% non faccia piacere a nessuno. Ma la cosa più preoccupante è dove sono arrivati i BTP. I BTP sono arrivati come rendimento al 7,40%, ricordo la soglia tecnica del 7% come soglia oltre la quale si dice c'è il punto di non ritorno, e cioè attenzione, non riesci più a ripagare il tuo debito. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia. Non è che domani dobbiamo rifinanziare con questi tassi, per fortuna, il nostro debito. Dobbiamo rifinanziare 307 miliardi da qua al dicembre del 2012. Però è chiaro che non riesce a rifinanziare niente con un tasso del genere. E vi do una notizia che hanno battuto le agenzie. In sostanza, i bookmaker, gli scommettitori, scommettono anche su quanto l'Italia potrebbe richiedere, quante possibilità ci siano che l'Italia richieda un aiuto, come ha fatto la Grecia al Fondo Europeo di Salvataggio. Ci danno al 3 punti, la Spagna la danno a 5, cioè se investi un euro ne guadagni 3, se investi un euro in Spagna ne guadagni 5, la Francia è data a 120, la Germania a 250, questo per dare le proporzioni. L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Per il resto, oggi l'oro in rialzo a 1.694 dollari l'oncia, il petrolio in calo 95, un nuovo record per il diesel, piove, gocciola diciamo sul bagnato, a 1.561 euro. Che come mai sono schizzati così tanto, vedo già molti messaggi, i BTP e gli spread? Beh, perché Clearnet, che è l'organizzazione che regola lo scambio dei titoli, ha deciso di aumentare i margini di garanzia sui BTP, ossia detenere titoli italiani a una banca, a qualunque società, costerà di più, e costando di più questo fa alzare i rendimenti. Ma è una misura che si prende quando un paese è assolutamente considerato non affidabile. Viva l'Italia, l'Italia liberata. Tant'è che la banca, il colosso bancario inglese Barclays, dice la crisi del debito italiano ha superato il punto di non ritorno. Gli manderei un gufo alla Barclays, però c'è un gufo depresso e si sta drogando di Prozac. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi. La cronaca ormai è storia più che cronaca. Il BTP schizza 500 punti alle 10 di mattina, poi va al 6,90% il rendimento del BTP a 10 anni, poi sfonda anche il tetto al 11 del 7%. Il biennale vale 6,77, il BTP a 5 anni sfonda anche il 7,14% di rendimento, quello a 2 anni poi alle 12 sfonda la soglia del 7%, la Banca Centrale Europea si muove alle 10,5 comprando obbligazioni italiane, ma non cambia molto purtroppo, nel senso che anche il BTP a 10 anni supera il 7% alle 11 di mattina e il nuovo record dello spread è a 530, ma ancora non è finito. Presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. E poi infatti a mezzogiorno lo spread vola a 546 punti, rendimento al 7,20%. La cosa impressionante è che praticamente l'effetto dell'acquisto dei titoli della Banca Centrale Europea è stato oggi nullo, a dimostrazione che tale l'ondata, diciamo, di scetticismo nei confronti del nostro paese, che nemmeno quando si è saputo che la Banca Centrale Europea ha comprato titoli italiani è servito a qualcosa. Viva l'Italia! L'Italia che lo spread tra noi e la Spagna è 154, cioè praticamente la differenza tra i titoli spagnoli e quelli tedeschi è a 396 punti, noi siamo appunto a 555 adesso. Gli occhi asciutti nella notte scura. A quel punto alle 14 circa è scattato un nuovo massiccio intervento della Banca Centrale Europea. Mario Draghi si è rimesso a comprare obbligazioni italiane e un po' questo a questo punto è servito. Il rendimento è sceso dal 7,41%, il BTP è calato a 560 punti, il rendimento è sceso dal 7,34%. Italia liberata. Domani ci sarà un'asta dei bot italiani, l'asta si terrà regolarmente e lo ha comunicato il Ministro del Tesoro. Derubata e colpita al cuore. Viva. Allora, le dichiarazioni, avete sentito nei nostri GR che il Presidente della Repubblica ha fatto sapere per tranquillizzare i mercati, in primo luogo che vi sarà a brevissimo un nuovo governo, il maxi emendamento dovrebbe essere approvato in maniera urgente, vedremo anche quella che sarà la partecipazione delle opposizioni. Il commento è in corso anche un incontro tra Confindustria e l'ABI, le banche italiane, dovrebbe o potrebbe uscire un comunicato forse congiunto. Emma Marcegaglia oggi ora di pranzo parla esplicitamente di baratro. Nonostante alcune decisioni prese ieri dal governo e dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, oggi in queste ore noi stiamo vivendo un momento drammatico. Ormai non è che possiamo più nascondere qual è la verità è che se non si mette immediatamente fine a questa situazione, il rischio vero è che l'Italia non abbia più accesso ai mercati finanziari, che vuol dire una cosa molto chiara, vuol dire che l'Italia non avrà la possibilità e la capacità di far sottoscrivere i propri titoli di Stato. Sapete che abbiamo un'asta il 14 novembre, ne abbiamo molte altre, il nostro debito pubblico è enorme, è il terzo nel mondo e quindi per noi questo tema è particolarmente, come dire, sensibile e preoccupante. Noi siamo nel baratro, ormai molto spesso abbiamo usato termini, voi sapete che Confindustria è da tempo, è da mesi, direi quasi da anni che sottolinea la necessità di fare le riforme che sono le uniche che ci possono ridare la capacità di crescere da una parte e nello stesso tempo di mettere sotto controllo i nostri conti pubblici. Così non possiamo andare avanti, il paese è nel baratro, in questo momento noi siamo già nel baratro. Viva l'Italia! L'Italia liberata!

che non ci piace, legittimamente non ci piace essere alla merce dei mercati, ma in queste ore noi dobbiamo dare le risposte giuste ai mercati, non abbiamo alternative. Sempre nel fondo di qualche giorno fa, io dicevo che anche il Presidente del Consiglio poteva e doveva compiere un gesto importante, cioè il gesto di investire la sua forza politica in questo sforzo, che non è solo uno sforzo tecnico perché è riduttivo, è uno sforzo in nome della causa italiana. Questo secondo me è un gesto che Berlusconi può ancora compiere. Nulla impedisce a Berlusconi di dire al suo partito: impegniamoci politicamente per dare sostegno a scelte anche ovviamente molto impopolari, ma assolutamente necessarie. Ecco, allora, qui stiamo ragionando su una situazione di emergenza. I banchieri che abbiamo sentito e che sentiremo definiscono la situazione da stato di guerra. Sì. E la guerra non si combatte mica solo con le armi normali, anche con le armi finanziarie. La richiesta è che il Consiglio dei Ministri approvi subito e questo emendamento passi subito al Parlamento nell'arco di 24 ore. Che cosa non ha funzionato ieri però? Perché qui assistiamo a 300 punti di spread presi in tre mesi, con diciamo fiammate continue da cui poi non si scendeva mai. Però quello che è successo in queste 24 ore nemmeno all'Italia, che pure ne ha viste in questi due mesi, era mai successo. Cioè 100 punti quasi di spread in 24 ore, in meno, in 10 ore di stanotte. Secondo me quello che non ha... Beh, intanto c'è un provvedimento sui titoli di Stato, per cui... Clearnet. Che bisogna aumentare la garanzia, che è proprio dall'idea... dobbiamo dirci la verità. Cioè, questo non significa alimentare il panico. Noi facciamo ogni giorno un manuale antipanico, ogni giorno, domani sarà addirittura speciale, per dare i suggerimenti al risparmiatore, consigli. Ognuno poi deciderà con la sua testa, ma tutto quello che deve sapere per scegliere al meglio. Però una cosa è, come dire, evitare il panico, e una cosa è negare la realtà. La realtà è quella di una situazione realmente emergenziale. Quando si arrivano a mettere questi vincoli sull'acquisto dei titoli di Stato, vuol dire che siamo in una fase in cui il tempo è realmente scaduto, e credo che l'impatto sui mercati sia determinato dal fatto che un gesto come quello che ha fatto ieri Berlusconi, di annuncio di presa d'atto della perdita della maggioranza e di annuncio di dimissioni, in due mesi fa avrebbe avuto un impatto positivo, esattamente positivo come quello di Zapatero, soprattutto se, e questo veramente lo dobbiamo auspicare, per una volta anche l'opposizione dimostrasse di capire l'importanza del momento e quindi collaborasse per votare il maxi emendamento, avere anche un ruolo attivo nel decidere, come è avvenuto in Spagna, alcuni provvedimenti congiuntamente e vararli immediatamente. E si poteva poi andare al voto. Oggi la situazione non è più quella di due mesi fa. Quindi i mercati vogliono fatti, la credibilità si dimostra con decisioni e con, come dire, anche una capacità di rappresentare, certo, questo paese adeguata alla richiesta. È molto antipatico questo ragionamento, è molto, come dire, per alcuni versi mortificante per un paese cofondatore dell'Europa, però purtroppo questa è la situazione di oggi, quindi negarla secondo me non è corretto, agire è obbligatorio. E insomma, come scrive uno ascoltatore al 349-238-6666, siamo passati dal professore che ti richiama all'essere mandati direttamente dal preside, che chi ha fatto il liceo, la scuola, sa che è una cosa un po' diversa. Voi, tu già lo ricordavi, domani uscirete con pagine speciali. Ricordo a chi è in ascolto che si può ascoltare il programma anche sul sito del Sole 24 Ore, visto che abbiamo fatto un link speciale oggi con il sito del Sole 24 Ore. No, è proprio un numero monografico. Domani un numero monografico dedicato diciamo al rischio Italia, alla tempesta sui mercati. Voglio però aggiungere un elemento di ottimismo. Ogni volta che noi come italiani e come paese siamo stati messi di fronte all'emergenza assoluta, abbiamo sempre trovato l'energia morale, la capacità tecnica e la forza operativa per reagire. Io sono certo che tutte queste qualità, anche soprattutto in un momento così difficile, anche in questa circostanza, possono e debbono riemergere. Mi dai un nome sulle personalità credibili? No, ma io questo non lo voglio fare, però ce n'è più di uno, per fortuna. Cioè, questo paese, per la sua storia, ha più di un nome credibile, che ha ben rappresentato questo paese in Europa, che ha ben governato questo paese, che ha credito sui mercati internazionali. L'importante è quello che decidiamo, però è importante anche come comunichiamo queste decisioni e soprattutto è importante dare un segnale di cambiamento di passo rapido, effettivo. Mi dici viva l'Italia? Viva l'Italia. Viva l'Italia. L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Nel frattempo la borsa, grazie al direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, la borsa ha chiuso meno 3,60%, il peggior titolo oggi è Mediaset meno 12,20%. Chissà che anche questo non serva al Presidente del Consiglio a capire la drammaticità della situazione, visto che viene colpita anche la sua azienda in maniera pesantissima. Lottomatica meno 7,60, Atlantia meno 6,30, Unicredito meno 6,30 anch'esso, Banca Popolare di Milano meno 5,80, Finmeccanica meno 5,60, Ubibanca meno 5,20, Impregilo meno 5,13, Exor meno 5%. Ora, so che sto per dire una bestialità, però come sentite dagli indici azionari, dai titoli, la cosa più drammatica oggi non è la borsa, certo, Mediaset perde tantissimo, Lottomatica pure, Unicredito con un 6,25%, l'avremmo chiamato crollo una volta prima di questo tunnel in cui ci siamo ficcati, ma invece adesso è un meno 6,81%. Ancora, vorrei tornare su quanto ci ha appena detto il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, probabilmente, sono assolutamente d'accordo con quell'analisi, se avessimo fatto l'operazione che è stata fatta ieri a giugno o a luglio o ad agosto, avremmo avuto un risultato positivo, come ha avuto la Spagna, cioè l'annuncio che si farà un maxi emendamento e poi si andrà a elezioni o un nuovo governo avrebbe tranquillizzato i mercati. Siccome ci siamo bruciati anche quel tempo in questi mesi, così chiacchierando, discutendo e non facendo nulla, non c'è più neanche il tempo che è stato dato alla Spagna a maggio-aprile quando fece quell'annuncio. Questo significa essere a corto di tempo. Se l'avessi fatto prima, ripeto, immaginate il decorso di una malattia, ce l'avresti fatta. Certo che poi se si va a Bruxelles, e qui non è che non posso non far ascoltare quello che ha detto il Presidente del Consiglio Berlusconi la settimana scorsa, e si dice che l'attacco al debito italiano è una moda passeggera, ecco, si dà un'ulteriore prova lampante di non aver capito a che punto sia di tragicità la situazione. Non si tratta di monitoraggio ma di certificazione, non è stata imposta ma è stata richiesta. Per quanto riguarda il fondo salva stati, noi pensiamo di non averne bisogno. Noi riteniamo davvero che sia un po', come dire, una moda passeggera quella per cui i mercati si avventino sui titoli del debito sovrano italiano. Non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che puoi. Devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. Passeggera dipende quanto, perché la vecchia frase di Keynes, poi ripresa da Galbraith, nel lungo periodo saremo tutti morti, insomma qui passeggero non c'è proprio nulla, lo spread è a 553 in questo momento, quindi leggermente sotto i 570, il rendimento di tutte le nostre obbligazioni però è stabilmente sopra il 7%, tra 7,20 e 7,40 toccato oggi a metà giornata. Ripeto, fino allo sfinimento, adesso la borsa la facciamo, ma non è la borsa oggi a preoccupare, anche se in un paese normale, in una situazione normale, quando la borsa perde il 4% parli di tonfo, ma non è questo il tema. Il tema è se si bloccano i finanziamenti tra banche e quindi i prestiti bancari, dove le banche vanno a trovare liquidità a questi tassi, e soprattutto con questi tassi possono le banche prestare soldi ai cittadini e alle imprese. Ne parleremo direttamente con i banchieri, perché la risposta chiaramente io non ce l'ho. Prima di tutto però la borsa. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Il Colle sulle 24 ore, ringrazio anche Mario Sprafico, direttore di investimenti di Shoulders Italia, buonasera. Buonasera. Ciao, adesso arriviamo da te, però Sprafico, mi dica una cosa, il fatto che il nostro spread abbia preso 100 punti in 10 ore, cioè tutti i punti che ha la Francia praticamente, la Francia ne ha 130, è dovuto alla situazione politica, ma anche alla decisione di Clearnet, che l'organizzazione che regola gli scambi sui titoli ha deciso di aumentare i margini di garanzia sui BTP. Ieri aveva smentito, e poi invece adesso l'ha fatto. Questo vuol dire che se tu compri BTP o hai BTP italiani devi avere delle garanzie più alte e aumenta ovviamente automaticamente il costo dei nostri BTP. Quanto ha inciso Clearnet e quanto ha inciso invece la valutazione politica, o sono tutte e due facce della stessa medaglia? Direi che sono entrambi facce della stessa medaglia. Direi che c'è stata un po' una, io credo, una revisione di tutto ciò che è stato in parte auspicato e in parte scommesso sui mercati negli ultime settimane, quindi relative al passo indietro del governo, ma con maggiore consapevolezza, cioè si è andati oltre, quindi nel cercare di verificare quali possono essere le soluzioni, diciamo, a questo passo indietro del governo. Probabilmente ci si è resi conto che non entriamo in un terreno, non dico facile, ma soprattutto di rapida conclusione, quindi non, io credo che ci sia una grossa parte della finanza, soprattutto anglosassone, sicuramente non italiana, che sta cercando un po' di orientare la politica, quindi ben venga quello che si dice, certe cose che non sono state fatte prima, questo è un momento storico per poterle fare, però credo che ci sia una parte che capisca molto poco del nostro paese e soprattutto quali sono le condizioni e le organizzazioni che devono essere e soprattutto i tempi che devono essere svolti per un iter parlamentare, un iter di un nuovo governo, quindi c'è, io credo, veramente anche una grossa fetta di quelli che possono dire, vogliono dire che non c'è speculazione, ma c'è stata anche secondo me una grossa fetta di questo tipo di componente di non conoscenza dell'Italia che ha voluto giocare in questa situazione e soprattutto profittando anche di nascondere buona parte dei problemi che non riguardano solo l'Italia ma bensì i nostri partner principali europei che sono la Francia e la Germania, quindi io credo che si è voluto orientare molto il problema sull'Italia per non risolvere altri problemi che stanno alla base. Non credo che ne usciremo facilmente in una contrazione degli spread, quindi una riduzione anche con probabilmente un nuovo governo tecnico, ma ci vorrà molto tempo prima di rimettere in sesto un po' di fiducia. Ecco, quando lei dice che i mercati non ci capiscono, vedo molti commenti anche sul nostro sito su Facebook, ricordo che il programma si può ascoltare anche sul sito del Sole 24 Ore, oltre che gli sms al 349-238-6666. Per inciso, quale e quanta responsabilità ha la stampa? Ma diciamo, visto che lei lavora per Schroeder, lavora per un grande gruppo internazionale, gliel'avranno detto. Certo, no, ma infatti, ma direi come in tutte le cose c'è, le informazioni possono essere interpretate in vari modi, poi in un contesto, una società di comunicazione come questa, è chiaro che c'è un ruolo determinante sul processo in cui come vengono lette le informazioni, non è solo come vengono dette. Direi che qui però c'è un aspetto molto forte di un mondo anglosassone che sa che perfettamente che l'Italia è uno dei paesi più solidi tra le economie industrializzate, ed è un paese che era in avanzo primario e lo è tuttora fino all'inizio, soprattutto dall'inizio di questa crisi, però sa perfettamente che opera in un contesto che è quello europeo in cui la focalizzazione è diventata il debito pubblico, cosa che si sapeva esattamente anche quando è partito l'euro. Quindi questo contesto è diventato una miscela esplosiva, quindi condizione necessaria affinché le manovre e l'accelerazione di tutto ciò possa avvenire affinché si ripristini un po' un equilibrio sui mercati, ma io credo che non sia sufficiente, occorre andare a rivedere veramente nell'ottica europea anche un rapporto veramente tra stati. Senta, quanto vale lo spread? Cioè, quanta parte di questo spread a 500 e 50 punti è da attribuirsi a Berlusconi? Ma io credo, cioè la domanda è molto semplice. Io devo dire la verità. Se domani Berlusconi, e come Presidente della Repubblica ha fatto sapere poco fa, c'è una dimissione vera, immediata, un nuovo governo, in 10 elezioni, l'opposizione si dà una mossa e vota il maxi emendamento, quanto cala lo spread secondo lei? 100, 200, c'è chi dice che vale 300 punti? Io credo che giugno eravamo a 230, a giugno, con un paese identico. Prego. No, io credo che guardi, il calo sarà molto molto contenuto in un'ipotesi di questo tipo. Questo perché? Perché obiettivamente prima di mettere in piedi, quindi di mettere in atto una serie di manovre sostanziali e strutturali per l'Italia ci vuole molto tempo e la credibilità in generale della politica, non solo italiana, ma anche quella europea, in questo momento da una parte dei mercati finanziari ritenuta molto bassa. Quindi non attribuirei, diciamo, un punteggio, un'eventuale uscita immediata o con responsabilità di Berlusconi a questi spread. E allora, dal suo punto di vista, come lo facciamo calare questo spread? Lo facciamo calare adesso approvando velocemente questo maxi emendamento. E possibilmente non andando a elezioni, avere un governo programmatico con delle programmazioni molto forti e soprattutto incidere molto su alcuni processi, tra cui non solo quello dell'alleggerimento dello Stato in molti punti, ma anche quello delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni. Vorrei ricordare che uno degli elementi che ha anche scatenato questo tipo di crisi nel mese di maggio e di giugno è stato non solo alcuni aspetti delle società di rating che sono usciti con report pieni di sé, pieni di mama, con pochi numeri, ma anche il risultato del referendum, perché molti dimenticano che nella parte del referendum c'era uno di questi referendum che riguardava un processo di liberalizzazione, era il famoso referendum sull'acqua. Da quel risultato del referendum in parte siccome vedo molti messaggi di chi, per carità, anche durante la Seconda Guerra Mondiale c'erano i giapponesi isolati nelle isole che continuavano a combattere finché non arrivava la lettera dell'imperatore Hirohito, quelli continuavano a combattere. Adesso è chiarissimo, ma lo dico senza nessun giudizio politico, è chiarissimo che dalla perdita delle amministrative Milano e Napoli, perdita del referendum, messa sotto assedio del ministro Tremonti accusato di non spingere sulla crescita, il nostro spread che era rimasto fermo per due anni, per i primi due anni della crisi, era rimasto fermo a 190-220 punti, schizza, supera quello spagnolo, non si ferma più. Questo è, poi uno può scrivere quello che vuole, che sai, c'è gente che non vede neanche se glielo spieghi. Resti con noi, Sprefico, rapidamente. Ciò condina, al di là della giornata, insomma, meno 3,80%, mali bancari, ma soprattutto Unicredito perde 6,81%, Popolare di Milano 6,11%, Ubibanca meno 5,80%, Finmeccanica 5,80%, Impregilo meno 5,40%, Enel meno 5,30%, come Banco Popolare e Fiat Industrial ed Exor, Fiat meno 5%, Monte dei Paschi meno 4,92%, Telecom meno 4,5% come Buzzi, Unicem e Mediobanca, ma anche Mediolanum. Qui mi fermo. Malissimo, l'automatica abbiamo detto meno 7,66%, Mediaset meno 12%, Mediaset. Sì, Mediaset paga il lungo addio del Cavaliere, da lunedì perde il 13,5% a fronte di un indice come il FTSE MIB, a cui appunto appartiene, che ha perso solo il 2,2%. Insomma, sul titolo, poi soprattutto oggi, sospeso più volte al ribasso e poi in asta di volatilità, pesano le incertezze politiche per quello che poi sarà comunque un addio, ha ribadito Napolitano, sicuro da parte del Cavaliere. Allora, oggi il gruppo Pirelli ha presentato i conti. E devo dire che i conti sono piaciuti, perché in una giornata del genere Pirelli perde decisamente poco rispetto al mercato, anzi meno 0,08% è il miglior titolo. Assolutamente, Pirelli resta stabile sopra i 6,4 euro tra ieri sera e oggi. I conti, un utile netto consolidato di 251 milioni in crescita del 56%, ma anche il nuovo piano industriale con un obiettivo di ricavi per il 2012 di 6,7 miliardi, previsto un piano di efficienza di 250 milioni, ovviamente i numeri che poi, crisi permettendo, dovranno essere realizzati. Ma questa dimostrazione che, insomma, quando tu i conti ce li hai, poi il mercato riesce ancora a distinguere, poi è negativo sul paese Italia, e questo lo vediamo dagli spread. Marco Tronchetti Provera, presidente del gruppo Pirelli, al microfono del nostro Andrea Fontana, collega di Radio Coro Il Sole 24 Ore, su quello di cui c'è bisogno in questo momento per il paese Italia. L'Italia ha una via d'uscita, i parlamenti degli altri paesi hanno approvato le richieste della Commissione Europea, in questo caso c'è anche il Fondo Monetario che sta monitorando l'Italia, e vorrebbe dare un segnale che sui punti principali che riguardano la tenuta sotto controllo del debito e gli stimoli per la crescita, siccome è molto precisa la richiesta dell'Europa, ci sia un accordo sui punti principali fra le diverse parti politiche. I mercati si rassicurano se è una volontà del Paese. I mercati sono preoccupati perché non vedono questa volontà emergere, vedono di più emergere quelli che sono i conflitti fra le diverse parti. Io credo che l'unico segnale che fermerebbe i mercati è, nell'interesse del Paese, una riduzione dei conflitti e l'approvazione di quelle misure possibili, perché alcune possono essere evidentemente difficili nel breve poter far passare, ma sono certo che con la buona volontà delle parti politiche e la larga parte della del Parlamento può e deve mettersi d'accordo sulle misure che stabilizzano la credibilità del Paese, perché c'è un costo anche sociale che viene pagato per questo ritardo. L'unica garanzia è una larga maggioranza che dimostra che qualunque cosa succeda il Paese ha preso questa strada. Non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che puoi. Allora, dottor Sprefico, previsioni su domani? Scajola gliel'ho appena raccontato, dice che il CDM approverà il maxi emendamento alle 18.30. A parte, ecco, questa notizia importante, ci sarà l'asta dei bot, quindi sarà un altro numero, insomma, da verificare, soprattutto in termini di copertura dell'asta, ma credo che non ci siano assolutamente problemi. E poi dipenderà molto anche dalla chiusura questa sera degli Stati Uniti, perché come un classico dei mercati in generale si guarda molto. No, un attimo che vedo, a me non si può andare avanti così. Vedo un flash agenzia del ministro La Russa che dice non ci sarà il Consiglio dei Ministri oggi. Vabbè, Sprefico, ci sentiamo domani, eh? Va bene. Non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che puoi. Devi voltare la faccia, non arrenderti né ora né mai. Presidente Gianni Zonin, presidente del Banca Popolare di Vicenza, buonasera. Buonasera, dottor Barigioni, come sta? Insomma, meglio io dello spread. Va bene, così. Insomma, non è che stia granché bene, quindi. Senta, l'ha mai vista lei una situazione del genere? No, non mi è mai successo in tutta la vita. Da quanti anni ha che fa il banchiere? È da 30 anni che sono consigliere nella Banca Popolare di Vicenza e da 16 anni che sono presidente del Consiglio di Amministrazione. Faccio a lei le stesse domande che farò tra poco al suo collega, il presidente del Credito Valtellinese, Giovanni De Censi. Allora, secondo lei perché siamo arrivati a prendere 100 punti di spread in 10 ore? Perché non c'è più la fiducia. Quando manca la fiducia è successo quello che è successo con la Lehman Brothers. È fallita una banca che sembrava solida, la gente ha perso la fiducia e quindi è successo un finimondo e ne stiamo pagando ancora le conseguenze. Senta, adesso, prego. Adesso molti operatori hanno perso la fiducia nell'Italia. Questo è un fatto gravissimo. Io credo che ci sia anche un'ampia forza speculativa che sta attaccando l'Italia, perché siamo non solo il giardino d'Europa, siamo il giardino del mondo. E invece una volta per conquistare gli stati usavano i carri armati e le bombe, adesso usano la finanza e questo sarebbe veramente grave. Senta, siamo in guerra. Ma è una guerra finanziaria, ma io credo che siamo in guerra perché non si capisce più niente. Francamente anche chi opera nel mondo bancario, la banca è un'azienda che ha una è fondamentale perché è uno snodo dell'economia. È vero che la ricchezza la creano le imprese, la creano le aziende, la crea il lavoro. Gli italiani, milioni di italiani che ogni mattina vanno in fabbrica, vanno in campagna, vanno nel negozio e si attivano. Ed è lì che si crea la ricchezza. Però se manca la banca, se manca la finanza, se manca l'aiuto, se manca la moneta, non funziona più niente. Ecco, adesso ci hanno attaccato nel punto in un angolo delicato della tutta l'attività complessiva che poi ecco, presidente, che problemi avete voi come banca in questo momento? Cioè i prestiti interbancari avvengono o vi finanziate solo con la BCE? E soprattutto avere un BTP al 7,40% significa rischiare di bloccare i finanziamenti a imprese e privati? A che tasso noi dovremmo richiedere alle aziende che chiedono un aiuto alla banca? È una cosa impossibile. Ma la cosa impossibile, cioè se tutto il mondo operasse così, se tutti gli stati operassero così, se tutte le imprese avessero questi aggravi, ognuno si regola, ma almeno combattiamo armi pari. Ma il problema è che questo riguarda l'Italia. Allora, abbiamo parlato per mesi e mesi quest'estate della Grecia e va a finire che se va così andiamo peggio. Ed è solo perché l'Italia è un paese straordinario. Abbiamo aziende bellissime, uomini capaci, abbiamo voglia di lavorare, abbiamo inventiva, abbiamo buon gusto e dopo ci troviamo in queste situazioni che assolutamente non meritiamo. È una confusione, evidentemente qualcosa non ha funzionato e sappiamo tutti quello che non ha funzionato. Cos'è che non ha funzionato? Cioè, il direttore del Sole 24 Ore poco fa ha detto, Roberto Napoletano, ospite nostro, ha detto insomma la misura presa ieri sarebbe servita se l'avessimo presa a giugno come ha fatto la Spagna. Adesso non c'è neanche più tempo per dire fra 20 giorni il maxi emendamento. Non si parla più della Spagna. La Spagna è a posto e sistemata. Fanno le loro elezioni, chiuso e non parla più nessuno. Allora io credo che, diciamo, per fortuna che ci sono le popolari, per fortuna che ci sono le banche, che ce ne sono per fortuna in Italia come la Popolare di Vicenza, che è vicina alle imprese, è vicina ai clienti. Sì, ma voi riuscite a prestare i soldi, Presidente, in questo momento? Noi cioè, quest'anno abbiamo aumentato i nostri impieghi del 9%. Ma l'anno scorso abbiamo aumentato gli impieghi del 14%, quindi abbiamo seguito questa richiesta, questa necessità che ha l'azienda per crescere, per svilupparsi e per affrontare, perché no, anche momenti difficili come quelli che stiamo attraversando adesso, perché chi non esporta e chi è concentrato sul mercato italiano, voglio dire, non sta attraversando un buon momento. Gli ordini sono fermi e ci sono delle difficoltà. E allora c'è la banca che aiuta a superare il momento difficile. Mi dice viva l'Italia? Gliela dico sì, perché io sono un convinto sostenitore dell'Italia, sì. Voglio bene la mia patria e continueremo a lavorare in questo modo. Allora, e gli italiani ce la faranno, sono sicuro, solo che abbiamo bisogno che ci sia un governo che funzioni. Me lo dice viva l'Italia? Viva l'Italia! Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Grazie al Presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin. Continuiamo il ciclo di interviste appena iniziato con vari banchieri e allora per capire quanto possiamo reggere con questi livelli di spread e di tassi di interesse sui BTP. Allora, come anticipavo, inizia un ciclo di interviste, speriamo di non dover andare avanti a lungo con queste interviste, con chi gestisce gruppi bancari, per capire quanto si può reggere in questa situazione e soprattutto quali problemi sta causando uno spread a 550 punti e un BTP che rende il 7,40%. A questi livelli, cioè 550 punti, vuol dire che abbiamo preso oggi quasi 100 punti di spread in una sola giornata. E ripeto, mi impressiona di meno la borsa che perde il 4%, la borsa i recuperi li può fare dei corsi azionari, l'attenzione andrebbe concentrata tutta sui termometri del nostro rischio, quindi spread e rendimento del BTP. Presidente Giovanni De Censi, presidente del gruppo bancario Credito Valtellinese, che significa anche tanti altri gruppi, Credito Artigiano e quant'altro, ma anche presidente dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, buonasera. Buonasera. Voi avete appunto Credito Artigiano, Credito Piemontese, Credito Siciliano, Banca Artigianato e Industria, Cassa e Risparmio di Fano e appunto la capogruppo Credito Valtellinese, 500 sportelli, 4.300 dipendenti e quasi 1 milione di clienti. Allora, Presidente De Censi, quanto si può reggere così? Ma come diceva il nostro governatore, il dottor Visco, il sistema bancario è forte, resiste, è sano e di fronte anche alle bufere abbiamo visto che l'importante è ricordarsi che il dovere cioè la libertà di continuare a fare il proprio dovere, raccogliere il risparmio e finanziare le imprese. E questo in queste condizioni è diventato difficile perché con queste variazioni sui tassi la liquidità scompare e quindi ha fatto bene Draghi a fare un intervento per abbassare la temperatura, ma mi pare che è servito poco, insomma. O meglio, però non sappiamo credo dove sarebbe arrivato lo spread senza l'intervento della Banca Centrale, ecco, mettiamola così. Questo va bene, però è un pensiero che lei aggiunge, sì, però 552 punti sono un incubo, per carità, sì, di differenza, anche perché io lo dico spesso, le condizioni economiche e anche finanziarie del paese non sono peggiorate in questo modo da giugno, no, adesso. A giugno viaggiavamo a 220, 230, mo siamo a 550, non è successo niente nel frattempo, Presidente. No, ma vede, io ho fatto 53 anni di banca, ho visto periodi estremamente difficili, duri, come quelli del 92, la svalutazione, eccetera, eccetera. Però che da un giorno all'altro, perché si diffonde, cioè noi il debito l'abbiamo sempre avuto, però abbiamo sempre avuto anche una potenzialità di produzione in grado di poter affrontare, come tutti questi debiti che si devono affrontare e pagare nel medio termine, in modo adeguato. Quindi l'Italia è sicuramente una forza in grado di affrontare il problema. Comunque si sa bene che la speculazione viaggia sulle onde delle aspettative. Adesso si è infilata un periodo effettivamente dove tutti ci giocano. Io però le dico, sono assolutamente tranquillo che le banche hanno, diciamo, un tangible asset fatto quasi tutto solo di crediti sulle nostre imprese e noi dobbiamo continuare a finanziarle, se no altro che crescita noi se non lo facciamo. Però mi scusi, ma in 35 anni di banca lei ha mai visto una cosa del genere? No, questo non l'ho mai visto. Non mi era mai successo di vedere, o quantomeno quando c'era una bufera c'erano interventi di stabilizzazione che venivano sul mercato con provvedimenti immediati. Ecco, la differenza rispetto, se è stato troppo tempo a bagno in questa situazione, sono 3 mesi che stiamo aspettando decisioni che invece non compaiono e poi dopo facciamo in fretta a dire certo oggi dipendiamo più da Bruxelles che da Roma. Però quando Bruxelles parla poi bisogna eseguire, insomma, se siamo entrati in una comunità europea bisogna stare anche allineati, anche se poi escono delle normative come quelle che riguardano il livello della capitalizzazione che in un momento come questo penalizzano proprio le banche italiane rispetto alle francesi e alle tedesche, insomma. Quindi lei non ha mai visto una cosa del genere, cioè non ha mai visto che uno spread guadagnasse 100 punti in un giorno, ma soprattutto... No. Ha economia invariata, cioè ha produzione industriale, a risparmio delle famiglie. Sì, indifferente della situazione, una variazione del genere vuol dire che è cambiato l'umore. E come se lo spiega questo? Cioè, c'è chi dice la mossa più sbagliata è stata quella di non dire mi dimetto, oppure c'è un governo tecnico subito. A fronte di queste situazioni occorrono risposte tempestive e immediate che dimostrino la volontà di voler il continuare a rinviare i provvedimenti. Qui siamo in un'economia di guerra, qui bisogna intervenire e decidere. Oggi facciamo questo, si convoca il Parlamento e si decide, punto. Non si può, la medicina va presa il giorno in cui bisogna prenderla, non rinviare e dire adesso farò. E questo purtroppo è la conseguenza di chi poi su questo specula, insomma. Il BTP, allora noi abbiamo continue segnalazioni, Presidente De Censi, di ascoltatori che vanno in banca a chiedere il BTP, a comprare il debito, anche per questa voglia che si sta creando nel paese di comprare il debito italiano. Abbiamo avuto ieri l'imprenditore che ha lanciato l'appello e segnalano che non gli viene venduto e soprattutto non trovano i rendimenti al 7 o al 6,40%. Sì, certo, lo devono comprare sul secondario, mica possono pensare che vengano emessi. Le banche emettono obbligazioni oggi all'intorno del 5,5, adesso dopo questo rialzo di oggi probabilmente aumenteranno anche loro, la loro posizione per poter raccogliere raccolta fresca e queste sono le condizioni, ma non si può certo adeguare immediatamente alla fluttuazione di uno spread come questo per prendere il titolo, quindi bisogna avere la pazienza di sapere che le banche sono sane, stanno facendo il loro mestiere, devono gestire in una situazione di grande difficoltà perché la liquidità non c'è e devono rifinanziarsi sul mercato della BCE, se non lo trovano altrove. E tutte, certo, quelle prudenti si sono tenuti dei buffer di liquidità a 6 mesi, a un anno, ma sa, queste cose qui finiscono in queste condizioni, quando non si trova più la materia prima bisogna per forza frenare l'attività, e questo è il problema. Allora, grazie anche al presidente del Credito Valtellinese Giovanni De Censi. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, cercate di pensare a altro, domani saremo qui a commentare cosa capiterà, e comunque viva l'Italia.